24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Noi vogliamo elettori, siamo per la riforma, uninominale, secca, l'inglese, col doppio turno, la francese e il ballottaggio, e lo scorporo del proporzionale al Senato e alla Camera, per il presidenzialismo e il cancellierato alla tedesca, il problema alla Sartori, e vogliamo il presidenzialismo all'americana con la soluzione alla francese e l'uninominale all'inglese, i bucatini alla matriciana e la bistecca alla fiorentina, e noi vogliamo elettori il bagno alla turca. O torero, che si piazzata in capo stu sombrero, dice che si spagnolo e non ne ho vero. E invece era lo spagnolo Benigni, non ci aveva visto lungo nel 95 Rotti, è lo spagnolo il sistema che pare Matteo Renzi e Silvio Berlusconi amano. Spagnolo, ci piace lo spagnolo, e che dobbiamo fare? Com'è il sistema spagnolo? Ah, non chiedetelo a me, io non so niente, figurati. Gli piace lo spagnolo? E com'è lo spagnolo? Non lo so, lo dovrò chiedere a Maria Di Nolfi, a Massimo De Manzoni, dopo aver aperto il Parlamento. Io non lo voglio il caffè della Minetti. Ma è che tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Prossere col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti, brutto cretino di un Milan. Manco ce l'ha ancora offerto. Il caffè volentieri a tutti quanti. Adesso magari uno può dire, vabbè. Comunque, ancora prima. Brutto cretino d'un Milan. Ecco, questo l'abbiamo capito. Allora, voglio salutare Massimo De Manzoni, vice direttore di Libero, espertissimo di sistema spagnolo, elettorale spagnolo. Sa tutto dei sistemi. Olè. Olè, olè, ecco, forse questo è chi vince fa olè. Questo è il concetto del sistema spagnolo. Ma forse Mario Adinolfi ci potrà illuminare. Adinolfi, buongiorno. Sì, buongiorno, io sono espertissimo di sistemi elettorali. Questo ve lo dico, non è una battuta, ne so veramente tutte. Oh, quindi in cinque parole il sistema spagnolo. Forza. È un proporzionale a circoscrizioni elettorali piccole. Ah, Massimo De Manzoni, hai capito? È tutto chiaro, sì, fin qua? E anche liste piccole. E liste bloccate. Vabbè, ma vedi che anche liste Massimo... Liste bloccate piccole. Ci lavoro io questa. Ah, ecco. Sei tu che sei una capra, Milan. Capra! Tu a forza di dar retta ai tuoi ascoltatori e le segreterie telefoniche, mi stai diventando populista, Eccolo lì, La legge elettorale è importante, bisogna capirci di queste cose. La legge elettorale non frega niente a nessuno. Ma quello è il problema, perché non frega niente a nessuno. L'italiano viene fregato, capisci? Questo è il tema. Ecco, quindi Renzi e Berlusconi, quindi devo leggere tutte le pagine sul sistema, devo studiare Dal Monte. La prossima volta ti interrogo sul Mazzarellum corretto. Già c'è Mauro Meazza del Sole che mi vuole interrogare sulla mini IMU entro il 24 gennaio e sto già sudando. Adesso devi pagare, non ti devi interrogare. No, adesso tu ti ci metti col sistema spagnolo, chiamerò il professor Dalimonte. Questa ti è piaciuta. Il professor Dalimonte, consigliere di Renzi. Lo sherpa di Renzi. È colui che sta mettendo a punto questa cosa, lo spagnolo o il Mattarellum, così Renzi avrebbe assicurato ai suoi, domani vedo Berlusconi, lo spagnolo o il Mattarellum. Massimo De Manzoni, incontrarlo o no? Questo è... ma è per forza che lo devi incontrare, su. Anche le barricate mi sono ridicole da parte di un partito che ha protestato fino all'altro giorno perché la precedente legge elettorale era stata fatta a colpi di maggioranza. Ed un partito che, come ricorda Renzi, ha governato con Berlusconi, perché è chiaro che lo deve incontrare, non è che ci siano discussioni. Lo deve incontrare. Il problema è diverso, cioè sul piano politico l'incontro rischia di spaccare la maggioranza, ma che è esattamente quello che Renzi vuole poi alla fine. È quello che farà spaccare la maggioranza. Allora, il concetto è questo, caro Mario. Pare che ieri Letta e Renzi sono visti, convocato in gran fretta alle 10 di sera, perché dopo una giornata in cui Renzi di Letta ha detto siete Siete un fallimento. Mario Di Nolfi, ma gli conviene a Renzi stare su questa barca? Perché... Ma non che non gli conviene, ma forse non vi è chiaro. Renzi sta facendo di tutto per affondarla la barca, insomma. Cioè, non sta facendo altro che lavorare al logoramento definitivo del governo Letta, su cui ha tutte le ragioni del mondo. Se voi adesso mi dite qualcosa di memorabile dei 10 mesi del governo Letta, insomma... Nessuno può contestare il punto di partenza di Renzi, cioè questo governo non ha fatto e non ha il consenso degli italiani, sono due fatti che sono incontestabili, insomma, per cui da questo punto di vista Renzi ha un suo obiettivo, cercare di andare alle elezioni avendo spiegato però bene perché ci va, cioè, non solo perché è un Pierino ambizioso, che poi è la verità, perché la verità è questa, insomma, appunto, è ambizioso, insomma, è chiaro. Ma vuole che gli italiani pensino che lo fa per il bene del paese, per il bene del paese, le fregnacce, insomma, per il bene del paese, per andare al potere, come tutti, se fai politica è legittimo che uno ambisca al potere, è il core business della politica, andare al potere, è chiaro. Ma lui ha un problema ulteriore, che è il tempo, nel senso che lui deve andarci in fretta, infatti anche a me questa sensazione che o lo fa o si logora, continuare a dire, a fare, altrimenti si logora lui. Continua a lavorare in governo, è vero che questo governo non ha fatto assolutamente niente, ma un governo che non fa niente e per di più è logorato, ma rimane in carica, è peggio del peggio, alla fine, Renzi... anche per gli italiani. Certo, Renzi è in grado di comunicare questo in modo straordinario. Sentite per esempio come ha riassunto il fatto che il governo ha combinato una serie di disastri anche sulle tasse. Ma perché vai da un negoziante e non riesci a dirgli, guarda, su questo provvedimento, no, dice, è aumentata la TASI, TAIRI, tutto, IOC, come si chiama, IUC, la tassa sui rifiuti, la TARI, mi pare si chiama l'ultimo nome, se no, TASI, si finisce RS, ora poi si fa TATI, TAVI, TAZI, TAFAZI, Ecco, i TARI, TASI, proprio, TAFAZI, te lo ricordi Mario Di Nolfi, TAFAZI, quello che si dava le bottigliate sui coglioni. Certo. Cioè, diventati, Vabbè. Si può dire, sei mezza coglioni. Bene. Ma tu dici di peggio, tratti male i miei ascoltatori, quindi... Ma gli ascoltatori sono capre, Ecco, smettila. Non stanno niente di legge elettorale. Sentite ancora Renzi. Ma smettila, Renzi però dopo avere detto così assicura non sono contro Letta, ma siccome questo governo è il nostro governo guidato da uno di noi, far notare che gli errori si rimediano, meglio ancora bisognerebbe non commetterli, non è cercare di fare le scarpe al Presidente del Consiglio, è cercare di dargli una mano. Chi gli fa notare gli errori non è uno che gli vuol prendere il posto, è uno che gli vuole bene. Gli vuole bene, Massimo De Manzoni, hai capito? Faccio così per aiutare Enrico Letta, gli voglio bene. Per gli amici mi guardi Dio, diceva quello, no? Che ai nemici ci penso io. Sì, gli voglio bene. Se questo è un amico, Letta può dormire, sono tranquilli, no? Sì, gli faccio dei favori, no? Capito Mario Di Nolfi? Gli faccio, lo aiuto, gli faccio capire dove sbaglia, gli faccio capire cosa fa bene, cosa fa male, non... L'ipocrisia della politica è sempre divertente, questo no? È chiaro. Da un punto di vista però Renzi non ha tutti i torti, insomma. Che dovrebbe fare? Anche se fosse l'uomo più buono del mondo, sì, se tu fossi sinceramente amico di Letta, non gli diresti, datti una mossa? Io pure se fossi il fratello di Letta gli direi, guarda, è così, non va. Ma secondo me è nato una cosa che nasce tonda, non diventa quadrata. Questo governo è nato... La saggezza popolare, bravo, sempre più. Ma come fa un governo nato così a fare le cose? Dai, non è... Cioè adesso io non hai capito che le larghe intese sono la grande occasione per fare le cose. Se non le fai con le larghe intese, ma con che cavolo le fai le cose? Ho capito, questo in teoria, questo in Germania, sei andato in Germania a fare un viaggio di recente, Letta andava a bastonate, lui invece decide di andare ad Andreottismi e ovviamente la paga, insomma, è chiaro, non c'è niente da fare. Sì. Massimo, che ci avevi da dire? No, che Renzi l'ha pagato la consulta, perché cioè, senza quella sentenza probabilmente saremmo già indirizzati tranquillamente sul binario del voto. Il problema vero è che la Consulta con quell'operazione che ha lasciato una legge totalmente proporzionale, quindi totalmente inservibile per un governo vero, e ha messo nelle mani dei residenti un'arma formidabile, perché a questo punto dice: cosa c'è? Va bene, si va a votare, ma con questa legge. Ma tra l'altro arriva la domanda. Deve andare a votare presto, però prima deve fare una legge elettorale. Ma ha preso l'impegno. Guarda, Mario Adinolfi mi ha risposto ieri su Twitter, Renzi, e mi ha detto, perché io conto le settimane decisive, 37esime, e lui mi ha risposto ieri dicendo: ma questa e la prossima sono davvero decisive, accetto scommesse. Si è preso l'impegno solenne, è stato. Sì, il problema è vero, ha proprio ragione De Manzoni, cioè questa è la chiave. La Consulta ha prodotto, questa cosa ancora non si può dire in Italia, ma ha prodotto il disastro. Era mille volte meglio il Porcellum, mille volte meglio il Porcellum, no una, mille, perché voi mi dovete spiegare, voi che purtroppo non sapete la legge elettorale, quindi non te lo possiamo spiegare. Perché mi rompete le scatole da anni sulla governabilità. Ed era brutto il Porcellum che aveva il premio di maggioranza che garantisce la governabilità. Ma infatti la domanda chiave che ti pone un ascoltatore in quanto esperto tu di legge, cioè, ma il sistema spagnolo garantisce una maggioranza certa? No, solo il Porcellum garantisce la governabilità. Ovviamente se sistemi il premio di maggioranza al Senato lo rendi nazionale invece che regionale. Era quella la micro riforma che facevi in un attimo, sì. E invece di fare tutte le lagne, le stupidaggini, i provvedimenti francamente liberticidi, perché la Corte Costituzionale che mi dice che io non posso fare liste bloccate, io Parlamento, ma perché quando esistono in tutto il mondo le liste bloccate? Ma quale sistema al mondo va con la preferenza? Quindi mi stai dicendo che il vero problema del Porcellum era che Camera e Senato si votavano in due modi diversi. Regionale al Senato era l'una, era quella la porcata che diceva Calderoli, che ha detto poi l'ha fatta Ciampi, eccolo qua. Vedi che comunque ho studiato, Adinolfi, sei meno me lo merito, bravo, prof. Ma io lo so che tu vuoi solo sembrare come i tuoi ascoltatori, ma poi gli schifi come me, l'ignoranza crassa, l'incapacità di capire, la loro chiacchiera inutile. Finiscila 24 mattino. Ma buongiorno carissimo Milan, ma qui non ce la facciamo più, caro. Noi tutte le mattine ti ascoltiamo, siamo esterefatti, effettivamente sentiamo parlare di numeri e di soldi come se fossero biscolini. Qui bisogna cambiare, bisogna fare capire a questi signori politici che non c'è più niente da portare via, cari. Stamattina ho pagato il canone Rai e gli ho augurato gli alti funzionari della Rai, compreso la Presidente, si devono comprare con quei soldi medicinali, clisteri, purganti e tosse che pesca a rapuno. Quando Re Umberto abdicò, sicuramente non poteva immaginare il tipo di politica spazzatura che si sarebbe instaurata in Italia. Buongiorno Lino Milan, vorrei mandare un messaggio agli amici della Lega. Avere la pelle nera può darsi non sia responsabilità di nessuno, o avere la pelle bianca, però non far niente per il proprio paese, essere ignoranti e rubare, questo sì è responsabilità di ognuno. Si è chiusa la trasmissione su quel deputato che ha detto che in fondo 2 euro per l'acqua, 1 euro per il caffè, 3 euro per il coso non sono niente, ma di che parliamo? Ma stiamo a guardare se spendiamo per l'acqua e per il caffè. Cioè non si rendono neanche conto che la gente è indignata proprio perché si fanno pagare tutto, perfino il bicchiere d'acqua e il caffè, che l'ultimo degli uscieri si paga da solo e loro no. È una cosa incredibile. Ciao Milan, io ho un messaggio da inviare a tutti i leghisti razzisti. Ecco, vabbè, insomma, c'è questo, caro Mario Adinolfi. Ammetterai, insomma, no? Cos'è? Ammetterai, dico, insomma, no? Ma chi ammetto? Ammetterà, ormai lo puoi dire, Milan, ti fanno schifo anche a te. Ma dai, no, ma finisce. Quello allora, del canone Rai. E non lo pagare, allora non lo pagare. Se provo ma non lo pagare? Tella, non lo pagare, no, che paghi e dici poi glisteri e medicine. Ma che fa, l'evasore fiscale? Allora è meglio. Allora invece augura le malattie a sti poveretti. Certi, 619 dirigenti che prendono 500 mila euro della Rai. Come fanno scritto? Un po' schifo come il tuo pubblico, come? Questo sito. Però... cioè, Vabbè, pubblico di merda. Eccola là, è partito. Pubblico di merda! E il grido ad Inolfiano. Pubblico di merda! Il grido ad Inolfiano. Studiate, studiate. E Morettiano. Eccola. Studiate, diventate colti. Dopo ti insultano capre. Su Twitter, io devo difenderti. Però ma non devo... mi difendi mai, peraltro. No, no, non è vero, te, non è vero, devo difendere il pubblico, ma anche te. Devo fare il democristiano come Letta. Vabbè, comunque, allora, parliamo un attimo del ministro Chienghe. Libero oggi scrive, Massimo De Manzoni, che il ministro Chienghe tra due mesi che fa? Tra due mesi il ministro Chienghe, secondo le ultime informazioni, verrà candidata al Parlamento europeo come capolista, con tutti gli onori e bandiere, perché anche i democratici si sono resi conto che metterla lì è stato un grosso errore. Quindi crea più verrà, problemi, quindi più si dimetterà da ministro, si dimetterà da ministro, questo secondo Libero, si dimetterà. Sì, secondo Libero, secondo le voci e le informazioni che girano all'interno del Partito Democratico. Si dimetterà per essere candidata con tutti gli onori, rulli di tamburo e bandiere al Parlamento europeo, sì, dove sicuramente farà meno danni o comunque non fa il ministro. Non fa il ministro, che, al di là di tutto quello che è depurato da tutto il razzismo, da tutti gli orpelli, sì. Tutto quanto, un ministro che non ha fatto assolutamente niente per una parte del suo ministero. Sì, ma questo come tanti ministri o come tanti... Però effettivamente c'è un... Come tanti ministri che infatti critichiamo tutti i giorni. Sì, però allora... Quando si attacca la Chienghe diventa razzismo. Ma non questo... da parte di Libero. Però c'è da dire che ci sono delle manifestazioni. Ci sono, per esempio, l'onorevole Buonanno, e questo lo voglio chiedere a Maria Adinolfi, ex collega di Adinolfi, che si è dipinto di nero, fa due interviste oggi anche a Libero e dice: ma è un oggetto d'arredamento la Chienghe, in questo caso di ebano. Ecco, Mario Adinolfi, tu cosa dici? È razzismo quello della Lega oppure giocano sì, un po'? No, è razzismo. Questo è indubbio. Io ho un giudizio non buono dell'operato della Chienghe, secondo me è proprio non all'altezza. Cioè lo scrisse in un buon articolo Giovanni Sartori, raccontando anche sì, la provenienza professionale, insomma non è all'altezza, non ha la gamba, diciamo, per fare il ministro. Ma d'altronde, se fa il ministro a De Girolamo, ragazzi, la può fare pure la Chienghe, cioè non è che, cioè il problema è questo, è vero, non è all'altezza, sì, non è un buon ministro, sì, non ha fatto nulla, qualche volta dà l'impressione di non capirci neanche molto, anche lei, degli argomenti di cui va a trattare, quando parla dello ius soli assoluto all'inizio, poi si deve correggere. Sono proprio il core business del Ministero dell'Immigrazione, oltretutto di qualsiasi immigrato, per cui dovrebbe padroneggiare con più attenzione quegli argomenti. Quindi detto questo, però la figura internazionale, poi mi capita spesso di stare all'estero, che facciamo nel trattamento osceno che viene fatto del ministro Chienghe da parte di alcuni partiti, sì, non solo la Lega in maniera proprio becera, in maniera assolutamente becera, ma ogni tanto settiamo accenti anche in altre formazioni politiche, insomma, è troppo, di assoluto dispezzo. Questa cosa non è troppo, è inconcepibile, è impensabile, no, che in Italia stiamo in questo. Anche io credo. È persino controproducente, perché poi finisce per blindarla di dove. Anche perché Massimo De Manzoni, onestamente, una discussione del genere con lanci di banane da parte di chiunque in America sarebbe possibile. Ma non è immaginabile. In Germania sarebbe possibile, non credo. Allora, era esattamente quello che stavo dicendo, certi atteggiamenti sono assolutamente non solo riprovevoli ma anche controproducenti per lo scopo che si vuole ottenere, perché appunto consentono di gridare al razzismo e di blindare. Ma non è possibile che se io dico che il ministro Chienghe, titolare delle politiche giovanili di questo paese, che ha 45% dei disoccupati tra i giovani, e di cui la parola giovani io da quelle labbra non ne ho sentita dire sì, sì. In 10 mesi dici, di governo. Questa è una critica, questo si può dire che dal mio modo di vedere, se il Partito Democratico si è finalmente reso conto di aver messo la persona sbagliata nel posto sbagliato, e con tutti gli onori del caso, perché non si può mica appunto licenziare un ministro così dalla mattina alla sera, non l'abbiamo fatto con la cancellieri, non lo faremo forse con la Di Girolamo, ma è un altro discorso. Io sono solo contento. Ma questa è quella, vabbè, poi andrà a fare i danni in Europa. Adesso c'è, cioè, però vabbè, non è che i danni in politica li fa la Chienghe, cioè adesso è l'emblema di colei che fa i danni. Se parliamo della Chienghe, se parliamo di qualcun altro, parliamo di qualcun altro. Certo che i danni li fanno anche gli altri, ma abbiamo appena detto che Renzi, che Letta deve andarsene, l'abbiamo appena detto, io l'ho detto. Va bene, allora io mi devo fermare qui, perché non deve andarsene la Chienghe, per la Madonna. Mi devo fermare qui. Non so, c'è un messaggio. Quel ciccione scherza, ma se lo incontro gli faccio passare la voglia di scherzare. Non so a chi si riferisce Mario, io non lo so, però insomma, sai che spesso questo insulto viene, ne sono arrivati anche altri. Io difendo Mario Dinolfi e il diritto di dire la sua. Poi io dico che sbaglia, lui dice di no, facciamo la Democrazia Cristiana e lo reinviterò sempre. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui alle 7:17 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, siete pronti ad andare a lavorare? Ho fatto già un'imbarcata d'acqua in motorino, dragato con i remi all'altezza del cimitero monumentale stamattina alle 5:30. E chi è di Milano sa cosa vuol dire. Piove, però dai, bisogna andare a lavorare. Lo schema Allegri è sempre valido. Dai, forza, dai. Allora, noi avremo ospite il presidente della commissione vigilanza RAI, Fico, del Movimento 5 Stelle, questo alle 8:30, e parleremo ovviamente di RAI, ma non solo, torneremo anche sul tema sprechi, la politica. Avremo oggi alle 8:15 un onorevole che è anche sindaco e che minaccia di incatenarsi per mantenere il doppio ruolo e protestare davanti a Giorgio Napolitano in persona, e credo sia anche un politico che avrà diritto tra un mese o un paio d'anni anche a un vitalizio come ex consigliere regionale. Insomma, uno di quei personaggi che piacciono molto ai nostri ascoltatori e piacciono molto agli italiani. Lo sentiremo alle 8:15, l'onorevole Cera, e noi ora andiamo a leggere i giornali. In questo venerdì 17 gennaio, tranquillizzo tutti, il primo è Peter Bescapè, quello era venerdì 13, questo è venerdì 17, quello era venerdì 13, 13 porta sfortuna, no, venerdì 17 è un giorno come gli altri. Comunque i titoli, il Sole 24 Ore, la stretta europea sui gas serra l'allarme dell'industria, questo avete sentito anche il presidente di Confindustria Squinzi nel giornale radio, è il titolo di apertura, l'allarme lanciato dall'industria, dal settore industriale. Poi la questione invece Renzi-Letta, ormai ferri corti, è il titolo un po' di tutti gli altri quotidiani. Tensione alta tra Renzi e Letta, questo è per il Corriere della Sera. Per Repubblica, Renzi-Letta, duello senza fine. La Stampa, Renzi, attacco al governo. Il Messaggero, Renzi, Letta, scontro sul governo. Il Giornale invece la mette così, la svolta, accordo Renzi-Berlusconi. Per il Fatto Quotidiano, Renzi e Berlusconi, ecco l'accordo, guerra di missili con Letta. Il Secolo XIX sfida a Letta, Renzi agita il PD. Mentre per Libero, colpo di scena, siamo ricchi a nostra insaputa, l'Unione Europea cambia le regole di calcolo e quest'anno il PIL farà un balzo, ma i problemi dell'economia restano tutti. Queste alcune delle prime pagine dei giornali, alcuni dei titoli. Io però voglio partire allora da che cosa? Beh, puntata ennesima della vicenda dei rimborsi, consiglieri regionali, ieri ne abbiamo parlato, oggi ascolteremo ancora quello straordinario personaggio che ci ha chiamato, Vincenzo da Palermo, il suo indice puntato contro gli sprechi della politica ieri nella trasmissione. Beh, la notizia riguarda Rimborsopoli, cota a giudizio, gli sviluppi della Regione Piemonte, che è stato chiesto il rinvio a giudizio appunto per il presidente della Regione, e ancora i giornali riepilogano il Fatto Quotidiano, lo fa, tutte le spese pazze più incredibili avvenute nella Regione Piemonte negli ultimi mesi. Anche il Secolo XIX continua in quella che è stata un po' la vicenda che ha terremotato la regione Liguria con l'arresto dell'ex vicepresidente Scialfa. Volete sapere l'ultimo acquisto che viene contestato? Spese pazze in Liguria, Scialfa, parlerò ai PM, Matteo Indice sul Secolo XIX, pagina 4, l'ultima spesa contestata a Marusca Piredda. La ricordate, consigliere della Liguria, era colei che faceva anche le battaglie contro la privatizzazione di Alitalia tanti anni fa. Marusca Piredda, libri, la nuova matematica a colori comprata per la figlia, scrive il Secolo, e capi d'appigliamento Abercrombie, è una marca mica da poco, anche molto alla moda, molto giovanile. E eccole qua le nuove spese pazze. Ma l'articolo sulle regioni che più mi ha colpito è questo, cari italiani. Sergio Rizzo, pagina 9 del Corriere della Sera. Ricordate che il governo Monti ha messo una norma che doveva essere recepita da tutte le regioni per fare in modo che il vitalizio per gli ex consiglieri regionali venisse percepito almeno a partire dai 60 anni, perché c'erano casi di quarantenni, 35enni, chi faceva una legislatura nelle regioni si prendeva il vitalizio indipendentemente dall'età. Almeno Monti aveva messo questa norma, dai 60 anni in su, la cosiddetta norma antifiorito. Ebbene, alcune regioni, tra cui il Lazio, non ha recepito quella norma nel proprio statuto e dunque tutto procede come prima. Sergio Rizzo, Lazio, i 266 vitalizi d'oro dopo il caso Batman. Scrive in prima pagina del Corriere, due mesi ci sono voluti, due mesi di lettere, due mesi durante i quali consiglieri grillini della Regione Lazio, la richiesta di conoscere l'elenco dei vitalizi, si sono sentiti opporre ragioni di privacy, ma alla fine l'hanno spuntata ed eccola la lista. Nel dicembre 2013, e dunque pochi giorni fa, sono stati pagati 266 assegni, 49 in più rispetto a quelli di tre anni prima, per una spesa di 1.635.917 euro, il che significa 19.631.004 euro in un anno, ovvero un terzo del bilancio regionale del Lazio se ne va in vitalizi, un terzo. Soprattutto in quell'elenco che ora è nelle mani di Valentina Corrado del Movimento 5 Stelle, presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile, c'è la prova che nulla dopo la storiaccia di Batman & Company è cambiato, nemmeno per coloro che facevano parte del Consiglio regionale capace di bruciare in un anno 14 milioni di denari pubblici usati per scandalose spese personali. Nel 2012 è bastato un piccolo emendamento bipartisan per far saltare la norma del decreto Monti che avrebbe inibito il vitalizio prima dei 66 anni di età, neanche 60, 66, e con meno di 10 anni di mandato. Tutto saltato, risultato, ancora adesso nel Lazio c'è chi incassa l'assegno con le vecchie regole, a 50 anni e con una sola legislatura, durata per giunta meno di 3 anni, quindi una legislatura scarsa. Francesco Carducci, per esempio, capogruppo UDC nel Consiglio regionale dal 2010 al 2013, compirà 51 anni, ma a dicembre ha avuto già diritto a 2.467 euro netti. Isabella Rauti, classe 62, eletta nel 2010 con la Polverini, figlia dell'ex segretario missino Pino Rauti, consorte dell'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, 2.611 euro. L'ex assessore all'ambiente della giunta Polverini, Marco Mattei, 50 anni, 2.467 euro. Paolo Cento, 1962, deputato verde, ex sottosegretario all'economia, detto Erpiotta, 2.400 euro, mentre Angelo Bonelli, collega di partito, 4.861. E poi c'è anche Piero Marrazzo, lo ricordate, al mese prende 3.187 euro, insomma, e così via. Non è cambiato nulla. C'era la norma per mettere da 66 anni e con almeno 10 anni alle spalle di consigliere regionale, la norma è stata aggirata e dal 2013 ci sono nuovi beneficiari di vitalizi nel Lazio. Evviva, evviva! Cari ascoltatori, la vicenda invece di cronaca che sta molto colpendo e monterà sicuramente, perché in Italia queste cose non si possono mai fare con una certa dose di normalità, è la vicenda dei Gioia Tauro. Arriveranno a fine mese o a inizio febbraio, così dice il ministro degli esteri Emma Bonino, intervistata dal Corriere della Sera. Che cosa? Intanto dice non quelle che impropriamente vengono definite armi chimiche, ma materiale chimico sequestrato in Siria con Assad, che ha deciso di smantellare sotto la pressione internazionale i propri arsenali, e sono stati messi stipati in una nave americana che farà scalo a Gioia Tauro, uno scalo tecnico di circa 24-48 ore, e arriverà. Ovviamente grande preoccupazione, alcuni dei sindaci minacciano addirittura guerra civile. Armi chimiche a Gioia Tauro, i sindaci, chiudiamo il porto. Il governo rassicura, la sicurezza è garantita, anche se il manifesto mette questa frase di Maurizio Lupi, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che è una frase effettivamente un po' strana. Ha detto Lupi... gli agenti chimici che transiteranno per il porto di Gioia Tauro rientrano in classi di prodotti che vengono trasportati ogni giorno in Italia. E poi ha aggiunto, sono prodotti pericolosi, ma di una pericolosità normale. Ecco, questo è il manifesto, scrive, si è reinventato la lingua italiana. Sono pericolosi, ma di pericolosità normale. Sta di fatto che il ministro Emma Bonino, viene intervistata da Danilo Taino sul Corriere della Sera, parla di due temi. Uno sono i Marò in India e racconta tutta la pressione diplomatica che sta facendo l'Italia per risolvere finalmente dopo quasi due anni questo caso, e poi parla appunto del caso di Gioia Tauro. La scelta non l'ho fatta io, ma mi pare che dal punto di vista dei requisiti l'indicazione del porto di Gioia Tauro sia conseguente, un porto di eccellenza, e le ragioni portate dal ministro Lupi mi sembrano convincenti. I pericoli, chiede il Corriere, tutto sarà condotto con la ricerca della massima sicurezza, ma per essere chiari va detto che stiamo parlando di materiale tossico e non di armi chimiche. Le operazioni sono un po' in ritardo per problemi in Siria. Il trasbordo sulla nave americana Cape Ray a Gioia Tauro dovrebbe avvenire a fine mese o a inizio febbraio. La Cape Ray poi distruggerà i materiali in acqua internazionale mediante idrolisi. I residui saranno trasferiti in Germania e in Gran Bretagna per essere convertiti in sostanze utilizzabili dall'industria. Cosa c'è su quelle navi? È interessante il Sole 24 Ore con Gian Andrea Gaiani, pagina 6. Cosa c'è su quelle navi? Beh, quelle navi trasportano 570 tonnellate di prodotti chimici che appunto stanno per essere messi, imbarcati sulla nave ausiliare della Marina statunitense Cape Ray. A bordo del cargo militare da 36.000 tonnellate di stazza, 200 metri di lunghezza, si trovano due sofisticati sistemi di distruzione delle armi chimiche attraverso scissione dei componenti per idrolisi. Strumenti in dotazione al Pentagono viaggeranno in Italia tra i moli che separano le due navi su binari utilizzando le procedure di sicurezza standard per la movimentazione di materiali pericolosi chimici o di altra natura. Cosa c'è? Sono i composti e precursori di gas nervini sarin, EVX e l'iprite, considerata dagli esperti l'elemento più pericoloso e instabile tra quelli rinvenuti in Siria. Comunque non si tratta di armi pronte a esplodere, dal momento che i tecnici hanno reso già innocue le munizioni rinvenute prima di stoccare i materiali chimici in 12 siti, da cui vengono poi trasferiti verso il porto di Latakia e qui imbarcati sui mercantili. Vabbè, questa è la situazione. Sindaci dicono non siamo la pattumiera chimica, questo è il titolo per esempio del Fatto Quotidiano, subito per rassicurare. Gioia pattumiera chimica, il porto calabrese attende l'arrivo delle navi con l'arsenale tossico. Però i sindaci già promettono battaglia, staremo a vedere. Ieri è stata una giornata di ennesimo litigio prima a distanza, botta e risposta, dialettico, e poi a un certo punto alle 10, all'improvviso alle 10 di sera, Renzi ha varcato la soglia di Palazzo Chigi, ha parlato con Enrico Letta, un faccia a faccia. Allora Renzi ha detto nella direzione del PD ieri quello che riassume il Sole 24 Ore nel titolo a pagina 8. Sono stati 10 mesi del governo fallimentari. Ora capite bene che Renzi, segretario del PD, che dice di Enrico Letta, del suo stesso partito, che fa parte della coalizione di governo con il nuovo centrodestra, prima Berlusconi, è una cosa del genere, è Scelta Civica. Non può passare inosservata. Emilia Patta, pagina 8 del Sole, il segretario avanti a trattare con Berlusconi. A quel punto Cuperlo, ricordate, sfidante nelle primarie per correre alla segreteria con Renzi, e D'Alemiano lo frena. Sta di fatto che tutti i giornali la mettono così, guardate il Corriere, purtroppo torna la parola che mi provoca le tachicardie. Fibrillazioni dentro il partito e il sindaco si prepara all'incontro con Berlusconi. Pagina 3 del Corriere, Maria Teresa Meli. Massimo D'Alema va via per primo. Per una volta l'ex presidente del Consiglio esce di scena, non per marcare la sua presa di distanza dal segretario, ma per evitare di votargli contro. È questa la fotografia del nuovo PD alla direzione del partito. La fotografia della nuova direzione. Matteo Renzi incassa, però è prudente. Non lo impensierisce il no di Cuperlo, non lo intimorisce la prospettiva che la minoranza lo attacchi perché incontrerà Berlusconi. Visto che di questo dice: ma vi pare che chi ha fatto il governo con Berlusconi ora venga a rompermi le scatole se lo incontro? Con Letta i rapporti sono ridotti ai minimi termini. E come dice qualcuno, come Ugo Sposetti, che certo non è un renziano all'interno del PD, Matteo deve stare attento, se si mette d'accordo con Berlusconi rischia di ripetere gli errori di Veltroni, che si accordò sulla legge elettorale col Cavaliere e poi perse le elezioni e il partito. Anche perché il PD, dice Sposetti, è spietato, carnivoro. Non è un partito padronale come Forza Italia, non perdona nessuno. Ma assicura il Corriere, in realtà Renzi guarda i sondaggi. L'ultimo sondaggio di Alessandra Ghisleri, che peraltro è la sondaggista preferita anche da Silvio Berlusconi, lo dà come preferenze, come gradimento in vetta alla classifica dei leader e dei personaggi politici, poco sotto il 50% di gradimento, sopra addirittura al gradimento per il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E vabbè, diciamo, non sarà facile, ma Matteo Renzi ci prova, e per provarci il primo punto è la legge elettorale. Lo farà incontrando Silvio Berlusconi, nonostante La Stampa scriva che, questo a pagina 2, Massimo D'Alema è uscito dalla direzione del PD con questa frase riferita a Matteo Renzi: siamo ormai alle comiche. Così ha sentenziato Massimo D'Alema, secondo Carlo Bertini, sulla Stampa a pagina 2. Ma Matteo Renzi, i rapporti con Letta sono ai minimi termini. Anche, per restare sempre sulla Stampa, Fabio Martini lo scrive nel suo retroscena in prima pagina: non si è fatto vedere al partito ed è la prima volta da quando è presidente del Consiglio. Enrico Letta lo sospettava. Alla prima vera direzione del PD dell'era Renzi il governo sarebbe finito nel tritacarne, e in questo è stato facile profeta. Ecco perché, secondo La Stampa, non si è presentato ad ascoltare Renzi. Eppure, dopo aver ascoltato il dibattito in streaming, al presidente del Consiglio è spuntato un sospetto: non sarà che proprio Renzi, l'alfiere del maggioritario, dentro di sé accarezzi un'idea estrema, cioè andare ad elezioni anticipate e conquistare Palazzo Chigi con il detestatissimo sistema proporzionale? E insomma, sta di fatto che lo ha convocato e ieri alle 10 si sono visti faccia a faccia. Non ci sono grandi notizie su come sia andato questo faccia a faccia Renzi-Letta. Sta di fatto che anche il Libero titola così: ceffoni a Letta, Renzi sotterra il governo, solo errori e figure barbine. E qui veniamo a quello che avverrà nelle prossime 24-48 ore, e cioè Renzi si vedrà con Berlusconi. Il tanto detestato da alcuni incontro. Il titolo del Foglio, l'analisi di Claudio Cerasa, è la mano di poker di Renzi. Scrive Cerasa: non voglio andare a votare, voglio evitare il disastro alle europee, voglio le riforme costituzionali, voglio abolire il Senato, non voglio il rimpasto, non voglio il proporzionale, voglio subito una legge elettorale, voglio farla col governo, Potrei farla anche con Berlusconi. Insomma, voglio farla con chi ci sta. Mi basta che sia maggioritaria, ma non voglio togliere la fiducia a Letta. E a voler essere sintetici e non senza ironia, scrive Cerasa, il succo del messaggio politico che esce dalla prima direzione del PD di Renzi è questo. Riguardo all'incontro col Cavaliere, scrive Cerasa, a chi si sta chiedendo quanto ci sia di vero nella trattativa tra il Cavaliere e Renzi, bisogna rispondere partendo da una premessa. Renzi è convinto che alla fine sarà costretto a fare una legge elettorale con Letta e Alfano e pensa che il modo migliore per costringere il governo a rispettare i tempi sia utilizzare la trattativa con Forza Italia come fosse una pistola da puntare alla tempia di Palazzo Chigi. Ma se dovesse capire che Berlusconi è l'unico che vuole davvero una nuova legge in tempi rapidi, non avrebbe problemi a trasformare la benzina in combustibile e a mettere la sua firma sotto quella del Cavaliere. Sta di fatto che dove si incontreranno, anche questo è un tema, dove si incontrano? Allora, la segreteria del PD? No, perché se no qualcuno dice ma come Berlusconi con una condanna, un pregiudicato va alla segreteria del PD? Renzi non può andare da Berlusconi perché insomma è lui l'uomo forte, lo ha già fatto una volta, andrà da Arcore. Allora Berlusconi andrà da Renzi, forse in una prefettura, forse in un albergo. Dove si può fare? Tutto questo dalla stura, l'articolo di Mario Aiello sul Messaggero a pagina 4, Matteo Cav, incontro in hotel. Di questo leader PD mi fido, così avrebbe detto Berlusconi. E Renzi, di rimando, continua a dire ai suoi, io non mi sento Cappuccetto Rosso che vede il lupo. Dove si vedranno? L'incontro si fa domani o comunque prima di lunedì, come due amanti clandestini si vedranno in un hotel? Chi lo sa? Questo forse è il luogo prescelto. Ma dove? Al Bernini Bristol, dove Renzi alloggia, darebbe un vantaggio a Matteo. Anche un rovesciamento di senso, del tipo l'altra volta fu il sindaco di Firenze a recarsi ad Arcore e stavolta è Berlusconi deve andare da Renzi, ma Berlusconi pare che sia d'accordo. Al Bristol benissimo, gioco in casa anche lì perché l'hotel è di proprietà di Bernabò Bocca, che è un nostro valido parlamentare di Forza Italia. E quindi il concetto è questo. Il dato di fatto è che pare che Letta a Renzi abbia detto ieri alle 10, questo almeno alle 10 di sera quando si sono visti, nel retroscena di Goffredo De Marchis su Repubblica, stai attento perché se tiri troppo la corda salta tutto. Anche Repubblica assicura il faccia a faccia tra il segretario Renzi e Berlusconi è previsto domani. Sta di fatto che Renzi oggi andrà da Daria Bignardi alle invasioni barbariche e forse lì dirà, svelerà l'arcano. Quando e dove si incontreranno? Mauro Meazza, Il Sole 24 Ore, buongiorno, di' la verità. Guarda, penso che sia la domanda che tutta Italia si pone. Ma certo, se la pongono tra cappucci, mica parlano di la scuola, i problemi, la tassa, il canone della RAI da pagare, tu vai in posta. No. Di questo parlano. Si incontreranno o no? E dove? Mi veniva in mente quella canzone di Iannacci di tanti anni fa, Cara, dove si andrà, diciamo così, a fare all'amore. Ecco. Mauro Meazza è un grandissimo anche artista della musica, quindi. Ma insomma, senti, volevo dirti delle cose meno, come dire, meno importanti. Sì. Ecco, grazie, meno importanti. Allora, che innanzitutto hai visto che gli incassi di Equitalia sono un po' calati. Chiedo scusa, la voce stamattina non è delle migliori. Vabbè. Gli incassi di Equitalia sono un po' calati, si spiegano bene perché mobili, Marco Mobili e Giovanni Parente sul Sole 24 Ore, c'è l'effetto delle rate, molti sempre più chiedono il pagamento a rate. E poi un po' anche però le correzioni delle leggi, insomma delle regole di riscossione sono cambiate, quindi hanno frenato un po' gli incassi. C'è un'altra puntata del romanzo Falciani, le liste dei conti all'estero. Ci sarebbero 8.000 conti a Lugano, non si sa di chi siano. Tu avevi un conto a Lugano? No, io sono abbastanza sereno da questo punto di vista. Controlla bene, perché comunque ma Angelo Mincuzzi ti racconta una seconda puntata della storia, diciamo, bellissima per certi versi, di Hervé Falciani. E poi ho una comunicazione da Radio Fisco. Queste sono le migliori. Sì. Allora, la prima, ci sono i modelli, sono stati presentati i modelli non delle automobili ma delle dichiarazioni dei redditi. A chi piace il genere rinvio alle pagine di Norme Tributi di oggi. E poi veramente Radio Fisco incifrato, attenzione, ci sono delle risposte dell'Agenzia delle Entrate sulla comunicazione dei beni ai soci. Non so quanto tu abbia capito. Come sempre io faccio il comunicatore, com'era quel, no, faccio l'informatore, come che era? Il trasmettitore. Il mero esecutore. Esecutore, faccio l'esecutore. E come siamo meri trasmettitori, quindi però è importante. Chi doveva capire ha capito. Sì, sì, ma non sono messaggi, non sono pizzini. No, per carità. Non sembrare un criminale. Mettiamola così. Sono delle informazioni riservate a lettori particolari, professionisti che si occupano, avvocati, commercialisti. A proposito, parliamo anche del malessere degli avvocati. È chiaro. Perché c'è molto malessere, molto malcontento. Tre giorni di sciopero, ho letto anch'io il titolo e sono spiegate tutte le motivazioni. Mauro, ti devo salutare, buon weekend, riprenditi, ma la voce così ti fa più sexy. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Allora, devo dire che prima Andrea da Como mi ha scritto grazie, la tazzina è andata sulla notizia dei vitalizi, e non avevo detto di tenere ben fermo e appoggiare le tazzine e tenere le mani ben strette sul volante. Adesso non vorrei che mi imputassero anche, non so, un piccolo tamponamento al primo semaforo. Insomma, mi spiace Andrea, la tazzina, quando leggo dei vitalizi delle regioni, effettivamente il caffè va sempre appoggiata, perché sennò poi succedono i disastri. Allora, alle 9, quindi tra un'ora qualche minuto, Nunzia De Girolamo entrerà in aula alla Camera per parlare. De Girolamo al test dell'aula, il ministro dell'agricoltura, il PD non vuole fare sconti, il premier dice sarò rigoroso, sta di fatto che trovate tanti articoli di una vicenda che però rischia di diventare vecchia tra un'ora e 10 sui giornali, perché appunto parlerà, come poi si voterà, come saranno gli sviluppi, questo staremo a vedere. Come ci sono sviluppi, continuano sul tema i rapporti Lega-Chienghe. Lega ministro, la Lega ieri hanno fatto così un'iniziativa, hanno cercato addirittura di occupare o di parlare con il presidente del Senato Grasso, cercando di occuparne anche gli uffici, scontro sul reato di clandestinità, il blitz della Lega in Senato con Massimo Bitonci, il capogruppo che era ospite ieri, non ci ha preannunciato questa cosa, farabutto in maniera ovviamente ironica, e poi urlava dalla finestra stiamo occupiamo, vabbè. E certo, però non aiutano i comportamenti di quel Pierino della politica che è l'onorevole della Lega Buonanno. Cosa ha fatto l'ultima? Appunto, si è dipinto di nero alla Camera per denunciare: se sei nero ti difendono, se no, no. E fa due interviste, una Repubblica, una Libero. A Repubblica sentite cosa dice a Tommaso Ciriaco l'onorevole Buonanno: è solo un oggetto di arredamento, in questo caso di ebano. Così si riferisce al ministro Chienghe. La metti lì, ma non fa nulla come ministro. Se non era di colore, non lo faceva il ministro, e quando parla dice solo cazzate, cazzate rispetto alla realtà. Ma voi non l'attaccate per quello che fa come ministro? Ma che significa? Io rispondo per me, non sono razzista, con gli immigrati ho un bel rapporto, mi votano perché da amministratore ho dato loro casa e un lavoro. Se poi succede che si tutela di più un clandestino che un italiano, non va bene. Prima bisogna aiutare la nostra gente. Se questo è razzismo, sono razzista. E poi dice ancora: ma guardate anche sta vicenda di Lampedusa, hanno fatto tutto quel circo per la doccia, per la scabbia, ma il direttore del centro è una persona in gamba, se non li mettevano in fila nudi non finivano più di fare il lavaggio. Ma scusi, ma erano condizioni umilianti, nudi, in pubblico. E risponde così Buonanno: ma perché, scusi, lei negli spogliatoi dopo aver giocato a pallone come fa? Vabbè, insomma, il leghista Buonanno è uno di quelli anche che tiene alta l'asticella della provocazione e dice della Chienghe è solo un oggetto di arredamento, in questo caso di color ebano. E il ministro Chienghe di lui dice andrebbe cacciato dal Parlamento, ma la notizia più interessante sul caso Chienghe ce l'ha Libero. C'è addirittura, secondo Libero, in prima pagina un piano del PD per liberarsi della Chienghe. Il piano, secondo Franco Bechis, sarebbe questo: candidare Cécile Chienghe come alle prossime europee, farlo come candidato di bandiera della nuova Italia multietnica, proponendola per il Parlamento di Strasburgo come capolista di una circoscrizione. Si sta sondando soprattutto la circoscrizione dell'Italia centrale. Per questo, assicura Libero, Kyenge si dimetterà, perché ovviamente in questo caso sarebbero incompatibili le due cose, si dimetterà da ministro nel giro di pochi mesi. Staremo a vedere. Intanto le vicende di cronaca che mi hanno colpito continuano, le odissee dei baristi. Sentite questa dal Quotidiano Nazionale. Manuel Spadazzi a pagina 6 paga un centesimo in meno di tasse per errore, un barista, un centesimo in meno, gli arriva dall'Agenzia delle Entrate una raccomandata da 17 pagine con una multa da 18 euro, ma se paga entro 30 giorni si limita a 6,33 euro di multa, capito? Cioè per un centesimo l'Agenzia delle Entrate manda una raccomandata di 17 pagine chiedendo una multa di 6,33 euro. La burocrazia in Italia. A proposito di burocrazia, Gian Antonio Stella fa una straordinaria pagina in prima pagina del Corriere, racconta questo: siamo l'Italia della digitalizzazione? Guardate qui. C'è una legge del 1990 che impone alle regioni di pubblicare il bollettino ufficiale internet, diciamo via digitale, per risparmiare la carta. La carta costa, in questo caso devo dirlo in maniera chiara. Il bollettino calabrese è ancora stampato su carta. Ancora su carta, e Gian Antonio Stella scrive un'intera pagina, bollettino calabrese su carta, ma l'inghippo è questo. Forse perché scommettono i maliziosi, la risposta va ricercata nella tipografia, benedetta dalla fortunata commessa pubblica. Qual è la tipografia? È l'azienda Abramo Printing and Logistics, di proprietà della famiglia del sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. E scrive Gian Antonio Stella, guarda caso, dello stesso colore politico di maggioranza di destra che ha in pugno la regione con Scopelliti. Sarà un caso? Così scrive Gian Antonio Stella. Siamo al momento conclusivo, il momento della carta costa, il momento dell'articolo più inutile. Scovato sui giornali oggi vince La Stampa con Vittorio Sabadin, che dedica mezza pagina per elencare i regali ricevuti dalla regina Elisabetta. Che regalo vuoi fare a Queen Elizabeth di 87 anni? Gli hanno regalato, per esempio, il presidente degli Emirati Arabi, una foto della famiglia reale incastonata in un uovo di struzzo. Tu immaginati, manco quei regali di Natale orrendi che apre. Oppure tra i regali arrivati un ritratto inciso a fuoco su un tronco, un bossolo di cannone. Un bossolo di cannone e anche un abbonamento annuale alla metropolitana. Alla regina Elisabetta. Ma me la vedete la regina Elisabetta al tornello? Dove si mette l'abbonamento al tornello della Subway? Ma mamma mia, mezza pagina sulla stampa. Sì, la carta costa, anche agli amici della stampa andrà detto. Qua alle 8 e 18 minuti, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, per introdurre l'ospite con cui voglio fare due chiacchiere, ieri devo far risentire lo sfogo che un ascoltatore, ieri parlavamo di Regione Sicilia, lo sfogo di un ascoltatore, Vincenzo da Palermo, è arrivato un tripudio di persone a dire usatelo come tormentone. Insomma, Vincenzo da Palermo se la prende così con i politici in caso di rimborsi grassi della Regione Sicilia, sentite. E gente che prende 20.000 euro al mese mi dice che per motivi istituzionali il caffè gli deve essere pagato. Ma che razza di gente è? Questa è un'offesa all'intelligenza delle persone normali. Questi, se non vengono presi a schiaffi come i bambini, non capiranno mai niente. E mi stupisco che i palermitani, all'osso come sono ridotti, non entrano dentro il palazzo e li schiaffeggiano, come dicono i pediatri, che uno schiaffo ai bambini ogni tanto non fa male. Allora, questo è Vincenzo da Palermo. Io voglio salutare, perché il clima un po' è questo, l'onorevole Angelo Cera. Onorevole, buongiorno. Buona giornata a voi. Lei non c'entra niente con la Sicilia, ma insomma, ha capito che questo è il clima che c'è in Italia? Ma sicuramente il signore ha ragione. Io francamente farei qualcosa di più. Chi si comporta in quei termini li passerei per le armi. Non ci sono proprio problemi. È gente indegna che infanca chi fa la politica fatta bene, onestamente in mezzo alla gente, cercando di, come dire, di credibilità con un impegno costante. Sì, però detto, passarli per le armi, insomma, è un po' passarli troppo. Per le armi, sì, non ci sono problemi, che quello è un altro tradimento rispetto all'impegno che uno assume con la... Però veniamo invece a parlare della sua situazione. Lei è onorevole Cera, è anche sindaco di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia. Allora, successe che qualche tempo fa le cariche furono... Mi perdoni. E volevo dire, mi aiuto con la vostra diretta. Sì. Qualche giorno fa, sul giornale Libero, è venuto fuori che io percepirei il vitalizio. Ma lo diciamo, lo spieghiamo. Okay, allora, lei qualche mese fa è stato dichiarato decaduto perché incompatibile le due cariche, poi invece c'è stato un cambiamento, è stato reinsediato, però nel frattempo il suo consiglio comunale non c'è più, insomma è un sindaco senza consiglio in pratica, così. E quindi lei ha minacciato di arrivare a incatenarsi davanti a Napolitano per questa situazione, addirittura. E perché? Guardi, perché io nel maggio 2011 sono stato eletto con una legge che mi consentiva essere contestualmente parlamentare e sindaco di San Marco, perché in quel tempo la norma era chiarissima. Sì, certo. Dopodiché nel luglio, con la spending review di con la 138, tirano fuori una leggina, perché si parlava di riduzione dei costi, insomma, sulla spinta di queste cose si è legiferato che a partire dalla legislatura successiva ci sarebbe stata la incompatibilità fra le due cariche. Io sono stato rieletto parlamentare, però a partire dalla legislatura successiva, quindi il problema me lo doveva contestare il Parlamento, e il problema era soprattutto che il Parlamento doveva contestarmi la mia incompatibilità. Vabbè, diciamo che comunque... Quando io da sindaco sono stato eletto con una norma consentiva. No, ma adesso lei ha il doppio incarico ed è legittimo per legge, però perché minacciare di incatenarsi? Perché è successo questo, guardi. Io sono stato con la delibera 52 del Consiglio Comunale, che in maniera impropria e forzando anche e abusando del proprio potere, approfittando di un momento di confusione, perché ho detto prima era il Parlamento che doveva porre il problema e risolverlo, così come ha fatto dopo, con la delibera 52 sono stato dichiarato decaduto. Per cui sono a quel punto, questa delibera ha poi suscitato nel Ministero degli Interni la decisione che, decaduto il sindaco, si porta dietro anche il Consiglio Comunale. Poi lei è stato reinsediato e il Consiglio invece no. Ma insomma, la questione intanto da chiarire è questa. Lei non prende due stipendi, l'abbiamo detto tante volte, se ne prende solo uno. Le prende da parlamentare e non da sindaco. Però ecco, la vicenda del vitalizio, tre anni, quando lei potrà avere anche il vitalizio da ex consigliere regionale. Mi perdoni, allora io non percepisco né il vitalizio né assolutamente una lira dal mio comune. E va bene. Ho fatto 13 anni per l'esattezza di consigliere regionale, e allo scadere del mio mandato di parlamentare potrò andare in pensione. Io ero direttore di banca qualche tempo fa. Ho lasciato il mio lavoro e per 13 anni ho fatto, era un quadro, per cui ecco, ho fatto il politico. Dopodiché sono stato eletto in Parlamento, ho lasciato la regione, e a partire dal da quando me lo consentirà la legge, io ho diritto alla, al mio vitalizio di 7.500. Da che cosa? Consigliere, come 7.000 vitalizio per cosa? Consigliere regionale? Regionale, ecco. Sì. E poi però avrà anche il vitalizio da parlamentare se fa una legislatura. Guardi, io il vitalizio da parlamentare non lo avrò perché? Con la legislatura scorsa noi abbiamo stabilito il sistema contributivo. Beh no, ma con 5 anni di legislatura si prende poco, ma si prende. Guardi, si prende poco perché comunque 10 anni di Parlamento l'abbiamo pure fatto. Ma però li cumulerà i due, sia da ex consigliere regionale che da ex parlamentare. Ma li andrò in qualche maniera a mettere insieme, perché credo che la legge lo consenta. No, è chiaro. E poi le chiedo scusa, avrà anche diritto a una pensione come direttore di banca? Io, per quello che è stato il mio lavoro, credo che qualcuno mi dovrà dare la mia pensione. Cioè, 3 pensioni, diciamo. Guarda, mi consenta, scusi, non è certamente la pensione della banca, perché se avessi continuato la banca, probabilmente da direttore di banca avrebbe guadagnato di più. Tutte e tre le partiamo dal concetto che io ho lasciato nella mia carriera di bancario, ho lasciato molto della mia pensione che avrei preso alla conclusione della mia carriera. Sì, però non era obbligata a fare politica. Però le chiedo questo. Guardi, a me chi me l'ha consigliato è il cittadino che mi ha sempre votato. Certo. Per cui la stella cometa non è stato un mio capriccio, ma la gente che mi ha votato, ritenendomi una persona seria ed onesta. La stella cometa. Senta, onorevole Cera, poi torneremo a parlarne, la reinviterò. C'è questa foto un po' impietosa, questi grillini, Malandrini l'hanno fotografata in Parlamento una volta che si era un po' assopito. Lei ha detto: avevo preso il treno alle 4 del mattino da San Marco, avevo appena pranzato, c'è stato un attimo in cui mi hanno immortalato che dormiva in Parlamento. Ma com'è sta storia? Perdoni, in Parlamento assopire, perché la gente tra l'altro a furia di stare in Parlamento dalle 8 di mattina fino alle 10 di sera, alle 8 di sera, alle 9, come dire, non essendo né impochito, qualcuno ci scappa pure. Ma il problema vero, no, non ho capito cosa ha detto la cioè parte. La gente, mi perdoni, uno che si alza alle 4 di mattina per raggiungere Roma, fare commissione, stare in aula, poi ritornare in commissione e fare il proprio lavoro, chiaramente non essendo, diciamo, dei super uomini, qualche volta ci può anche scappare 10 minuti. Quante volte è successo che ne avete preso di parlamentari che si sono stupiti? Mi faccia capire. No, poi è serio quello che i grillini hanno messo su. Ma parliamo della loro qualità, vogliamo parlare della loro qualità. Ma adesso guardi, noi e questo è il motivo per cui sono stati eletti dal cittadino. Insomma, lei dice mi sono assopito qualche minuto, adesso ma io infatti non la crocifiggo per questo, ci mancherebbe. Magari la questione delle 3 pensioni è una cosa che fa più arrabbiare gli italiani rispetto se lei le sommerà alla fine, io prenderò meno, guardi, mi perdoni, meno? Un medico condotto che fa le ricette a casa propria. Scusi, 7.800 euro lordi solo dalla regione. Il problema, mi perdoni, è la cattiva informazione. Sì. Perché lei sta dando una cattiva informazione. No, ma non dico allora così. Mi perdoni, io andrò con il contributivo, se poi finiamo il prossimo anno, andremo per 6 anni, 7 anni con 1.500-1.600 Poi ha detto lei la cifra della regione, 7.800 lordi, l'ha detto lordi, ho capito. Sono 43%, 44% quello che parlo. Sono 4.000 euro. Qualche cosa in meno. Ci aggiunge 1.500 euro da parlamentare. Sono 5.500. E che cosa sono? È una signora pensione, 5.500 euro, mi scusi, onorevole Cera. E poi c'è quella da bancario. È una pensione che fa gridare allo scandalo, chiaramente rispetto ai tempi che corriamo, sono un fortunato. E chi lo dice che non sono un fortunato? La verità che purtroppo dovremmo fare maggiore informazione. Va bene, sto facendo cattiva informazione. Onorevole Scera, mi sembra che è cattiva informazione. Siamo qua a snocciolare le cifre che ha snocciolato lei, a darle la parola. Se questa è cattiva informazione, non lo so. Le cifre giuste le sta dando lei, le più giuste di così, le sta dando lei, le ha fatti lei i calcoli. Non è cattiva informazione, si fidi. Intanto la ringrazio, onorevole Scera, per essere stato con noi. 24 mattino. Siamo qui allora alle 8:36 minuti, ben ritrovati, e con noi c'è fino alle 9, alla chiusura del programma, il presidente della Commissione Vigilanza Rai del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico, che viene a trovarci nuovamente. Presidente Fico, buongiorno, eccoci. Buongiorno a tutti. Allora, sul tema Rai ci sono tante discussioni. Intanto è periodo di pagamento del canone, come sa, cos'è? 106 euro rotti, insomma una cifra... 113. È tanto o è una cifra equa, secondo lei? Questo è un punto da discutere, cioè nel senso in Europa è un canone basso, questo sicuramente, però il punto è che dobbiamo capire il servizio che noi abbiamo, quindi capire se fa un servizio pubblico di qualità, deve essere un'azienda trasparente, deve essere un'azienda chiara, e allora a fronte di un canone di 113 euro potremmo avere un servizio, secondo me, pubblico di qualità molto molto più alto. Quindi, e oltretutto, se poi decidessimo di pagare tutto il canone, probabilmente potremmo anche abbassarlo. Ma l'idea di metterlo nella legarlo alla bolletta elettrica è una vecchia idea, è un'idea poi non si è mai concretizzata. Lei potrebbe piacere? Questa è un'idea. Il punto vero è che, sempre parlando rispetto al canone, che deve avere a fronte un vero servizio pubblico dove non ci siano opacità nella gestione, opacità nelle nomine, allora poi possiamo fare tutti quanti i tipi di discorsi. In questo momento bisogna dire che la RAI raccoglie il canone delle persone fisiche, mentre l'Agenzia delle Entrate lo raccoglie delle persone giuridiche. Ecco, e lei sa che Befera vorrebbe raccoglierlo invece tutto, l'Agenzia delle Entrate. Secondo lei sarebbe giusto, essendo una tassa, un tributo? Sì, essendo una tassa, un tributo, secondo me dovrebbe essere demandato totalmente tutto all'Agenzia delle Entrate, perché se è una tassa così va pagata. Però ripeto che bisogna rivedere poi le fasce di reddito per il pagamento, secondo me, del canone. Bisogna avere un servizio pubblico che sia di qualità e trasparente, allora si può chiedere anche un di più. Mettiamola così, dice, rispetto alla media europea è più basso, però rispetto alla qualità dei prodotti Rai va bene così, forse anzi è anche troppo alto, o è una sintesi sbagliata questa? Sì, più o meno così. La sintesi è questa. Senta, sa che c'è una battaglia strisciante, oggi ne parla solo la stampa, ma una battaglia molto forte tra la RAI e Sky sulla questione degli abbonamenti. La RAI chiede a Sky non di accedere agli abbonamenti, ma a dire, siccome secondo noi lì c'è una sacca di evasione del 25%, perché non ci aiutate a capire, insomma, chi evade il canone? Se uno ha l'abbonamento a Sky è ovvio che ha un televisore, quindi deve pagare il canone. Secondo lei chi ha ragione? Sky dovrebbe collaborare con la RAI oppure c'è la privacy che prevale? Questa è un'altra bella discussione da fare. Noi tra poco avremo l'amministratore delegato Sky in Commissione di Vigilanza Rai, proprio per audirli su questo tema, e avremo un contributo anche da parte di Rai sullo stesso tema, e quindi è un'analisi che man mano noi dobbiamo faremo fare. C'è una sentenza poi del Consiglio di Stato, c'è poi una sentenza del Tribunale del TAR, e è uno studio che man mano si deve portare avanti, fare chiarezza e comprendere bene. Certo è che sarebbe un po' assurdo avvalersi anche del database di Sky per stanare gli evasori. Perché sarebbe assurdo? È perché comunque tu prendi il Sky e poi ti trovi nel database della Rai. Credo che loro non vogliono avere i dati, ma a dire voi sapete, cioè, chi sono le persone che evade, esatto, e segnalatele non alla Rai, ma segnalatele al fisco, cioè segnalateli come evasori. Perciò dobbiamo fare vari ragionamenti su questo. Sicuramente c'è il diritto anche alla privacy. Dobbiamo comprendere bene, perché ci muoviamo proprio, secondo me, al limite. Questa è una contrattazione che, perciò io dico che poi in questo caso dovrebbe entrare l'Agenzia delle Entrate per il recupero delle evasioni, anche perché la RAI non ha nessun mezzo, chiamiamolo coercitivo, per poter recuperare il caso. Però l'idea, diciamo, poi ne discuterete, ma l'idea che Sky possa fornire al fisco la lista di potenziali evasori, secondo lei è una visione, un'ipotesi corretta o un'ipotesi che lei personalmente non prenderebbe in considerazione? È una possibilità, però dobbiamo andare qui poi in punta di diritto. In punta di diritto. Il direttore generale della RAI, Gubitosi, di recente proprio in commissione vigilanza, ha snocciolato l'elenco di quelli che Libero ieri ha detto i dirigenti superpagati, inamovibili, gli stipendi, però non si sanno ancora i nomi. So che è una battaglia, lei ha detto dal 1 gennaio c'è una legge che impone anche alla RAI trasparenza su quanto guadagnano tutti i dipendenti. Quando si otterrà questa... No, facciamo un po' di chiarezza. I dati che sono sul giornale sono dati che la vigilanza ha pubblicato molto tempo fa e che io in conferenza stampa della mia relazione semestrale sul lavoro della vigilanza ho anche ridato, perché questi dati non sarebbero mai usciti se la vigilanza non li avesse chiesti con forza. Infatti è la prima volta che nella storia della vigilanza RAI si hanno questi dati, e quindi oggi noi possiamo sapere che ci sono 3 dirigenti che guadagnano sopra i 500.000 euro, 1, 3, 400, 500.000 euro, così via a fasce, e sappiamo la retribuzione media dei dirigenti, sia dirigenti giornalisti che dirigenti, chiamiamoli così, sì, amministrativi. Non i nomi, al momento non i nomi. Però dal 1 gennaio 2014 c'è questa legge che impone alla società concessionaria del servizio pubblico, ovvero la RAI, di fornire gli stipendi lordi nominali di tutto il personale RAI, nonché quello di persone che hanno dei rapporti con la RAI, dei contratti, e quindi potrebbero essere anche i cosiddetti conduttori. E in questo momento sia il Ministero della Funzione Pubblica sia il Ministero dell'Economia e la Presidenza del Consiglio stanno lavorando per prendere tutti questi dati della RAI, dati disaggregati, e renderli pubblici. Cioè, quando succederà questo? Perché se c'è una norma dal 1 gennaio, cosa si aspetta? Qual è l'inghippo? In questo momento io so, perché ho sentito gli uffici, che stanno proprio lavorando su questi dati. I dati sono, i dipendenti RAI sono circa 13.000 tra tempo determinato e indeterminato, e in più ci sono tutti i contratti in vigore. Quindi verranno resi noti anche i nomi a breve? Diciamo. A breve sì, dovrebbe esserci la trasparenza massima. Oltretutto c'è anche un documento dell'Authority Anticorruzione che chiede proprio che tutte le società, sia quelle partecipate, perché questo è quello che dice la norma, sia quelle in concessione, che hanno la concessionaria, che sono concessionarie dello Stato, devono essere trasparenti al 100%. Per farci capire, cioè, nel senso, ci verrà pubblicato in maniera trasparente quanto guadagna, che ne so, Fabio Fazio, la Litizzetto, cioè anche i... Allora, il punto è questo, io posso anche leggere proprio testualmente che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, relativamente ai singoli rapporti di lavoro dipendente autonomo, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il predetto Dipartimento della Funzione Pubblica. Però il costo, quindi, non i nomi, cioè non il costo generale o il costo il costo nominale. Nominale. Sì, ecco. Costo nominale. E quindi, per comprenderci, in questo momento chi sta trattando questa, chiamiamola così, materia, attuazione di questo punto della trasparenza sulla concessionaria pubblica, sono il Ministero dell'Economia d'intesa con il Dipartimento della Funzione. Diciamola, chiamiamola anche patata bollente, perché lei capisce, lei capisce che è un po' delicato, cioè far sapere quanto guadagnano tutti i conduttori. È vero che la RAI è pubblica, però siamo in un regime di mercato concorrenziale, far sapere quanto guadagnano tutti i conduttori, quanto costano i programmi. Lei, per esempio, qui proprio in questi microfoni ci propose l'ultima volta, perché non mettere i titoli di coda il costo della trasmissione, un bilancio totale di quanto costa la trasmissione, visto che è pubblica. Questa proposta ha fatto dei passi in avanti oppure ancora un'idea? Noi siamo in, in audizioni, ovvero stiamo ascoltando tutti i soggetti interessati rispetto al contratto di servizio, che è il contratto che regola i rapporti in articoli tra la RAI e il Ministero e quindi è in questa fase che noi stiamo cercando di inserire anche questo tipo di normativa. Sì. Senta, ha visto che l'onorevole Brunetta ha pubblicato questo sito RaiWatch.it e stava iniziando a pubblicare appunto questi elenchi, gli è stato oscurato, è giusto l'oscuramento? Il giudice ha oscurato il sito di Brunetta rispetto al nome, perché ha usato il nome Rai. Quindi è solo quello il problema. È solo quello il problema in questo momento. Io sui contenuti che chiunque pubblica rispetto a quello che noi facciamo in vigilanza, e quindi anche rispetto ai quesiti che i commissari fanno e le risposte della RAI, devono essere totalmente pubblici, tant'è che noi tra poco approveremo una delibera in commissione di vigilanza che renderà finalmente, definitivamente pubblici tutti i quesiti dei commissari. L'iniziativa di Brunetta, lei, al di là che di un altro partito, la appoggia idealmente oppure è un'iniziativa impropria? No, assolutamente non è un'iniziativa impropria. Il punto fondamentale è che tutto deve essere riportato, secondo me, all'istituzione, ovvero è la vigilanza in questo caso che deve avere il sito, che adesso ha, mentre prima nella passata legislatura non aveva, ed è la vigilanza che deve con delibere attuare la trasparenza massima al 100%. Le faccio un esempio: nel passato non esisteva che si mandasse tutto in diretta streaming, oggi esiste, prima non c'era un sito dove i cittadini potessero informarsi proprio dal punto di vista istituzionale, oggi c'è, e tra poco tutti quei siti e tutte le risposte della RAI saranno pubblicate sul sito della vigilanza. Tra poco c'è anche Sanremo, Fico, ci sono le polemiche, ogni anno ci sono le solite polemiche anche qui sui compensi, renderli noti, non renderli noti, delle grandi star, per lei dovrebbe essere, immagino, tutto trasparente, tutto chiaro, tutto... Sì, e qui entriamo sempre nel solito discorso, ovvero questa legge e quindi i vari soggetti avranno rapporti e contratti con la RAI e questi devono essere tutti comunicati al Ministero della Funzione Pubblica, Economia e Presidente del Consiglio. E quindi verrà fatto, perché poi sembra lei snocciola le norme come se fosse una cosa che viene fatta in maniera normale, poi ogni anno ci sono le norme. Ricordiamo la famosa vicenda col portale RAI, per anni occultato o non reso pubblico, su tutti i consulenti esterni, norme di anni fa, e che poi non si è mai saputo niente in realtà. Sì, perché purtroppo in questo paese che cosa succede? Ci sono le norme, poi si fa riferimento a un'altra norma che chiede magari di formare una commissione, la commissione non si forma e quindi non si può dare attuazione a quella norma. E ogni legge magari viene bloccata da un'altra legge o si trova sempre un escamotage. È un po' la storia di questo paese su tutta una serie di questioni. Senta, le chiedo questo: la lottizzazione della RAI, secondo lei, combattere contro la lottizzazione della RAI da parte dei partiti è una battaglia persa? No, non è una battaglia persa, si deve fare e si deve vincere. Il punto è che è la cultura che ha caratterizzato il nostro paese, la lottizzazione della RAI. Ieri abbiamo avuto in audizione Garimberti, ex presidente della RAI, che ci diceva addirittura che nel consiglio di amministrazione si perdevano settimane perché non veniva approvata magari una fiction, perché la fiction era o di destra o di sinistra, e quindi si era paralizzati. Cioè, pensiamo il modo di ragionare della principale azienda culturale del paese. Allora, noi dobbiamo proprio cambiare la cultura. E come si fa a cambiare la cultura? Cioè, capisce? Lavorando. Fare le battaglie culturali sembra un po'... Cioè, lei le sembra normale che se il prossimo presidente del Consiglio non accetterà o rifiuterà di fare le nomine o di suggerire, non lui in persona, ma insomma ci siamo capiti, le nomine per i direttori di rete? Le battaglie culturali si fanno in tanti modi. Un modo, per esempio, è come proprio le dico, faccio io, che non chiamerò mai nessun direttore del giornale per dire non va così o va così, o direttore di rete e così via. Porto sempre tutto a livello istituzionale e trasparente, tutto quello che si deve dire e si deve fare deve essere protocollato e deve rimanere agli atti per inchiodare tutti alle proprie responsabilità, in modo giusto e trasparente. ovviamente nei luoghi istituzionali, e poi si devono fare le leggi. Dobbiamo cambiare il modello di elezione e governance della RAI, perché è fondamentale, e dobbiamo impedire a qualsiasi Presidente del Consiglio di nominare magari il direttore generale per conto del Consiglio di amministrazione. E quindi la cultura si cambia in tanti modi, si cambia facendo le leggi, si cambia rispettando le regole, rispettando le istituzioni. Tante volte non c'è bisogno di leggi per fare le cose, cioè, nel senso, io in commissione di vigilanza e noi abbiamo attuato una spending review senza avere bisogno di nessun tipo di legge che ci chiedesse di attuare una spending review. Le faccio un esempio: noi abbiamo dei fondi a disposizione che nelle passate legislature sono state ampiamente usate, i fondi sono 30.000 euro all'anno, e fino adesso in sei mesi, più di sei mesi, abbiamo usato 188 euro. Le dico, queste sono le cifre, questo è il cambiamento anche culturale. Allora, il cambiamento poi lo vedremo. Le faccio due domande politiche, perché insomma lei è un esponente anche importante del Movimento 5 Stelle, al di là della Commissione Vigilanza RAI. Oggi, tra pochi minuti peraltro, il ministro De Girolamo parla in aula e darà le spiegazioni sul caso che la riguarda. C'è una mozione del Movimento 5 Stelle perché si deve dimettere. Perché si dovrebbe dimettere? Non è neppure indagata. Si dovrebbe dimettere perché, come abbiamo delle problematiche che nello stesso modo in cui abbiamo avute con la cancelliera, il ministro di grazia e giustizia, abbiamo chiesto le dimissioni perché ci sono modi e comportamenti che non sono degni di un ministro. Questo è il punto. Al di là dell'essere indagati o meno, secondo me un ministro deve garantire le istituzioni, deve garantire di conseguenza tutti i cittadini, e il comportamento della Di Girolamo non è un comportamento che reputo di garanzia per tutti i cittadini. Ma lei lo giudica attraverso cosa? Attraverso delle intercettazioni ambientali lette sui giornali, attraverso ricostruzioni di articoli? Questo, cioè, il giudizio lo evince da quello che ha letto su alcuni articoli, immagino. Sì, lo evinciamo da quello. Però è un giudizio che poi è stato anche riferito e controllato nelle ASL. Ci sono anche capi di accusa, non per la Di Girolamo, ma per altri che coinvolgono la Di Girolamo. In ogni caso, questa mattina la Di Girolamo viene in aula e viene a riferire, ascolteremo anche quello che ha da dire. Poi oggi la Di Girolamo viene in aula perché ci sono state delle interferenze. Poi noi faremo la nostra mozione di sfiducia. Cioè, secondo lei, comunque, il sistema non le piace. Secondo lei, De Girolamo non può continuare ad essere ministro? No, secondo me no. Le chiedo anche questo: perché avete bocciato le tre proposte di Renzi sulla legge elettorale? Avete lanciato un sondaggio tra gli iscritti, una cosa anche lunga, un po' complicata nell'attuazione, bisogna fare in fretta invece. Perché lo avete fatto? Perché noi abbiamo una metodologia di lavoro, cioè tutto il Movimento 5 Stelle, poi secondo noi tutta Italia, che deve in qualche modo riuscire a comprendere che cosa sia una legge elettorale, che cosa sia e qual è una legge elettorale buona per il Paese e non per i partiti. Quindi noi stiamo proponendo un percorso di scrittura insieme di legge elettorale, qualcosa che non si è mai fatto. E poi non è un procedimento così lungo, perché entro fine febbraio noi lo dovremmo concludere. Forse fine febbraio è troppo, forse è questo, la gente forse dice troppo. Però guardi, ho tempo, 30 secondi per l'ultima domanda. Mi dica sì o no, lei approva la campagna, diciamo, segnala il giornalista del giorno, insomma è quella per cui vi accusano di additare i giornalisti tra i bravi e i cattivi? No, non c'è nessun, non è un additare i giornalisti tra i bravi e i cattivi. Noi non facciamo altro, in questo senso il blog di Grillo, a riportare degli articoli che mi sembrano particolarmente faziosi o non veritieri, e quindi segnaliamo in sé il contenuto dell'articolo e la persona che ha scritto. Poi però arrivano gli insulti su Twitter, la rete è così. Gli insulti, da tutti gli insulti, io mi dissocio e si dissocia sicuramente anche il blog di Grillo. Ci ricordiamo che l'ultima volta che arrivò un insulto pesante era un iscritto al PD di Renzi. È vero. Cioè, quindi siamo parlando, è chiaro, si dissocia. La ringrazio, devo fermarmi. Grazie a Roberto Fico, presidente della Commissione Vigilanza RAI. Ci sentiamo e ci riaggiorniamo a lunedì prossimo alle 6:30.